troverà a casa mia. C'è mia madre innamorata che disegna l'armonia. C'è mio padre che è arrivato. Spero che non vada via. Mia sorella corre sempre dietro alla fantasia. Io sto zitto e un po' distratto. Faccio una fotografia. Sono tornato con la mente. Dov'era casa mia? Quante volte ci ho pensato. Come sarebbe avervi qui? Quante volte ho immaginato raccontarvi i miei lunedì? Quante volte sono stato a guardare quella foto? Quante volte sono stato? Ma ancora oggi mi fa male. Sono tornato con la mente. Dov'era casa mia?